impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Ercole Botto Poala, dal mulino di Valle Mosso, 150 anni di tessuti Reda sostenibili, di Anna Marino. Il mio rapporto con l'armadio è cambiato negli anni, ovviamente cambiando l'età cambia anche l'approccio con l'armadio. È ovvio che lavorando nel mondo dell'abbigliamento indossiamo per testare la qualità e l'efficacia, ma anche passione, perché alla fine io non mi vergogno di dire che indosso abiti con tessuti della concorrenza, perché comunque è un po' una passione. Poi, avendo avuto 2 anni e mezzo fa 2 gemelli, una maschia e una femmina, adesso spesso capita che la bambina indichi le sue preferenze sull'abbinamento con la cravatta, e devo dire che a volte è un po' imbarazzante, perché la sua scelta cromatica stona un po' col tipo di abbigliamento che lavorativo, però è divertente. Una nota familiare nella scelta dei tessuti, che passa di generazione in generazione, in una famiglia da sempre dedita con passione alla conoscenza delle trame di ogni vestito, a partire da quelli nell'armadio di Ercole Botto Poala, titolare dell'azienda tessile ultracentenaria Reda. 2 volte l'anno Reda presenta ai clienti le nuove collezioni, con una proposta media di 2500 varianti di tessuto. Una scommessa, provarli tutti e sfiorarli. Ma Ercole Botto Poala, che ha anni di esperienza nell'ufficio prodotto, ce la fa. Assolutamente, è la parte più divertente del mio lavoro. Onestamente, il poter collaborare con gli uffici stili dei nostri clienti, poter non occuparmi più magari direttamente, ma supportare l'ufficio prodotto, è obiettivamente la parte più divertente del mio lavoro. Il lanificio Reda fu fondato nel 1865 a Valle Mosso, nel Biellese, da Carlo Reda. E ancora oggi produce tutto esclusivamente a Valle Mosso, dove l'azienda è nata quasi 150 anni fa, gestendo direttamente tutta la filiera produttiva, dal vello al tessuto finito. Nel 1919 il lanificio Reda venne acquistato da Albino e Francesco Botto Poala, con la clausola di non cambiare il nome Reda, e quando la clausola scadde il nome era ormai talmente conosciuto che non fu variato neppure allora. Venne solo premesso a Reda Successori. Oggi è tornato a chiamarsi soltanto Reda. Noi siamo la 4ª generazione, la 3ª in successori Reda, la 4ª come diciamo famiglia che produce tessuti. Ci tengo a sottolineare che siamo la 4ª perché la statistica arrivano fino alla 3ª, no? Sembrerebbe che il 75% delle aziende non sopravvivono alla 3ª generazione. Nel 1968 un'alluvione distrugge le fabbriche, ma non ferma l'attività di Reda, che affronta la ricostruzione puntando sull'innovazione tecnologica. L'azienda è riuscita a reinventarsi, anche attraverso le generazioni, per superare la crisi, che allora come oggi rappresenta anche un'opportunità. Fondamentale, dice Ercole Botto Poala, è saper cambiare, cogliere la svolta. Io credo, come poi è stata l'alluvione, i momenti di difficoltà sono diventati invece dei motivi di opportunità. Forse la ragione di successo, di continuità di questa azienda, perché in quegli anni lì, probabilmente poi negli anni successivi, si è cambiato il modello di business. Il modello di business era prima rivolto alla sartoria, quindi c'era il ramo pacchi, diciamo, che era il cliente ideale di un lanificio. E guarda caso, le aziende che avevano a capo dei giovani si sono resi conto che il mercato stava cambiando e che il futuro era più il confezionista. A Biella, in quegli anni lì, quando si è passati dal ramo pacchi, diciamo, alla confezione, dalla sartoria alla confezione, sono praticamente scomparse metà delle aziende, proprio perché non si sono adeguate al nuovo modello di business. E guarda caso, quelle aziende erano gestite da titolari di una certa età, i quali, avendo avuto successo per 40 anni della loro vita professionale, è difficile obiettivamente rivoluzionarsi. Ho avuto sempre successo, perché devo cambiare? Senza dimenticare il passato, l'azienda ha salvato dall'alluvione anche parte dell'archivio che si trova in sala riunioni. 24 volumi di campionari rilegati in tela, ordinati per anno e per stagioni dal 1910, e 20 quadri con documenti originali relativi alla produzione dei tessuti, scheda tecnica e campioni di stoffa anni 30. E ci sono 3 ritratti a cui Ercole Botto Poala è molto affezionato. Sono mio bisnonno, che è stato il fondatore, diciamo, della dinastia, uno dei fondatori della dinastia Botopoala nel Tessile, e mio nonno e suo fratello, mio nonno Francesco e suo fratello Albino, che sono stati poi, diciamo, coloro che sono subentrati alla famiglia Reda. Poi gli altri non vogliono essere messi sulla parete perché sono ancora vivi, quindi non hanno nessuna intenzione di finirci per il momento. Negli anni successivi inizia il massiccio sviluppo all'estero verso i mercati internazionali, affascinati dal lusso e dalla qualità del Made in Italy. Oggi Reda esporta in tutto il mondo, ma la produzione mantiene il solido legame con le colline del Biellese. Nel 1998 è stato inaugurato infatti il nuovo stabilimento. È il primo lanificio al mondo a sposare al 100% la nuova tecnologia di filatura compatta. La base è a Valle Mosso, nel Biellese, con 380 dipendenti, 100 telai, 1500 tonnellate di lana lavorate in un anno e 2500 varianti di tessuto. Una produzione tutta rigorosamente made in Italy che opera ad ampio raggio in tutto il mondo. Dagli Stati Uniti alla Russia, dall'India al Sud America e naturalmente anche in Cina. Reda esporta il 70% dei suoi tessuti e dal 1993 ha aperto, una dopo l'altra, tre fattorie di dimensioni enormi in Nuova Zelanda. Sono 33.000 ettari di terreno dove vengono allevate 30.000 pecore. Il motivo di questa scelta? Mantenere le radici, ma anche seguire tutta la filiera. Hanno cominciato a viaggiare tra Australia e Nuova Zelanda e capire come comprare la lana migliore, la lana più bella. In questi viaggi mio padre in particolare si è innamorato della Nuova Zelanda e ha proposto di fare un investimento diverso, di diventare allevatore, anche per dimostrare agli stessi allevatori australiani e neozelandesi che se la lana, le pecore venivano allevate in una certa maniera e la lana veniva selezionata in una certa maniera, il mercato li avrebbe premiati. E quindi è stata anche una scelta di educazione nei confronti del fornitore, per fargli capire come le necessità dell'industria. Quindi, per parlare degli allevatori, siamo dovuti diventare anche noi allevatori. E per questo Ercole Botopoala vede oltre l'Expo, puntando tutto il futuro dell'azienda e del suo fatturato sulla sostenibilità. La sostenibilità credo che sia la ragione di competitività per poter rimanere a produrre in questo paese qua. Questo è un paese che se domani le aziende non saranno sostenibili non saranno competitive per rimanere a produrre in Italia. Quindi lo riteniamo strategico e fondamentale. Il fatto di essere sostenibile, quindi essere l'unica lanificio al mondo con una certificazione ambientale come l'EMA, che a differenza di tutte le altre ti obbliga ogni 2 anni a ridurre il tuo impatto ambientale, non è tanto legato a un'operazione di marketing. La nostra scommessa è che in questo paese un domani, se non si è sostenibile, se non si riduce il tuo impatto ambientale, che si traduce in riduzione di costi, non potrai essere competitivo. Reda si è relazionata però anche con una startup. È una lezione di attenzione ai giovani che Ercole Botopoala chiama eroi. Questa è una crisi democratica, ha colpito tutti, non ha guardato in faccia nessuno. Secondo me trovare oggi un giovane italiano che vuole fare un imprenditore sono dei piccoli eroi e questi eroi devono essere supportati. Ma anche una lezione di vendita. Reda ha scelto una startup per scannerizzare il corpo in 3D, per avere un abito su misura online. Estrema precisione, una volta c'era il sarto che con il gessetto tracciava le forme sul tessuto. Ora Reda ha deciso di investire in una startup italiana che si occupa di abiti di alta sartoria, Lanieri. Nata nel 2012 da un'idea di 5 ragazzi, ha una libreria digitale che permette di creare il proprio abito personalizzato. Un modello di business che si fonda sulla vendita online e sul Made in Italy e su uno scanner. Gli armadi sono pieni. L'uomo non è che ha necessità a tutti i costi di vestirsi. Cosa convince oggi un uomo a comprare un abito, oltre alla necessità di doverlo cambiare per motivi qualitativi? L'esperienza d'acquisto. E credo che il web possa dare una nuova esperienza d'acquisto, che non coprirà probabilmente tutta la fetta del mercato, ma che possa soddisfare una certa percentuale. Oggi non so dire se 15, 10, 5, 20% del mercato. Però noi scommettiamo che un domani il web possa diventare un modo per vendere direttamente al consumatore l'abito.